Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi, come è accaduto spesso in passato, parliamo di calcio. E come abbiamo già fatto altre volte, parliamo di un calcio che non c'è più. Romantico, pionieristico, fatto di uomini veri e di valori purtroppo quasi del tutto scomparsi. Ci occupiamo oggi della squadra più amata dagli italiani, la vecchia signora, la Juventus. Vecchia la signora lo è davvero. La sua fondazione risale al 1897, data ufficiale per convenzione il 1 novembre. Un gruppo di studenti del liceo torinese Massimo D'Azeglio fonda la Juventus Football Club. La leggenda vuole che i giovani studenti si fossero radunati intorno a una panchina di Corso Re Umberto dopo la scuola, un pomeriggio dell'autunno del 1897. Non si sa bene in che data. Del resto le leggende, per essere tali, devono essere un po' sfocate. Qui questi ragazzi entusiasti del nuovo gioco arrivato dall'Inghilterra, il football, decidono di dar vita a un nuovo club. Ipotizzano dei nomi, quasi tutti di impronta latina. Si accordano poi su Juventus, gioventù, un nome che esprime bene il carattere e l'entusiasmo dei giovanissimi fondatori. Arrivò finalmente la seduta decisiva. Da una parte i latinofobi, dall'altra i classicheggianti, in minor numero i democratici. Alla votazione si avanzarono tre nomi: Società Via Fort, Società Sportiva Massimo D'Azeglio e Sport Club Juventus. Per quest'ultimo pochi simpatizzavano, ragione per cui riuscì ad imporsi. Fra gli oppositori c'ero proprio io. Mi sembrava che quel Juventus non s'addicesse a soci maturi. Avevo torto. Nella Juventus non si invecchia. Invecchia invece la Juventus. E così la società fu battezzata Sport Club Juventus. Sono parole scritte dal primo presidente, Eugenio Canfari. Corso Re Umberto 42, dove c'è l'officina del padre dei fratelli Canfari, è la prima sede della società. La seconda sistemazione è una stalla in via Parini, affitto troppo elevato e conseguente sfratto. Infine, la terza sede, la prima professionale, è in via Montevecchio 4. Qui la Juventus fa il salto di qualità e diventa un club serio. La prima divisa ufficiale è di pecorella rosa con pantaloni neri, fascia nera alla cintola, berrettino alla savoiarda e farfallino nero. Elegante e bellissima. La prima formazione, gli 11 pionieri: Varetto, Ferrero, Gibezzi, Rolandi, Chiapirone, Gianni Nicola, Armano, Malvano, Mario Nicola, Donna e Farlano. Il giorno 8 maggio 1898, proprio a Torino, si disputa il primo campionato italiano di calcio. Si iscrivono quattro squadre, non la Juventus, e vince il Genoa. La Juventus partecipa al campionato italiano dal 1900, dal 1903 in maglia bianconera. Le maglie di pecorella rosa, fini e costose, si sono ormai estinte. Così un industriale inglese, simpatizzante della Juventus, John Savage, si offre di rinnovare le divise e ordina quelle nuove a Nottingham, dove ha interessi commerciali. Quando arrivano le nuove maglie, per i soci è uno shock. Per un errore è diverso il colore. Sono a strisce bianche e nere verticali. La nuova divisa non piace, ma Savage non è disposto a un nuovo esborso. La Juventus si deve tenere le maglie bianconere, che entreranno nella leggenda. Domenica 9 aprile ebbe luogo il nuovo incontro tra la prima squadra del Genoa Cricket Club e l'Unione Sportiva Milanese per il campionato nazionale. Le due squadre segnarono entrambe due gol. Così la squadra di Genova segna in totale 5 punti e quella di Milano un punto. Il club Juventus di Torino vince così con 6 punti per la prima volta il campionato nazionale. La stampa di Torino nel 1905 annuncia il primo titolo nazionale dei bianconeri, ormai cresciuti grazie agli investimenti dell'industriale tessile svizzero Alfred Dick. Da quest'anno la Juventus gioca inoltre le proprie gare davanti a un nutrito numero di tifosi al velodromo Umberto I, nel quartiere Crocetta, un impianto di tutto rispetto. Nasce il mito della vecchia signora. 2 maggio 2006. Come una bomba, scoppia lo scandalo poi denominato Calciopoli. La Juventus ha quasi 110 anni dalla sua fondazione, ne è protagonista. Il suo direttore generale, Luciano Moggi, viene pescato in una serie di intercettazioni dal contenuto imbarazzante, designazioni arbitrali pilotate, richieste esplicite di favori, giocatori fatti ammonire ad hoc nelle partite precedenti a quelle della Juventus, addirittura giornalisti influenzati rispetto a titoli e commenti sui match dei bianconeri. Una macchia terribile che conferma i sospetti che da mesi, mescolati a voci sempre più incontrollabili, si addensavano sul club torinese. Per la Juve c'è la Serie B, la prima retrocessione della storia. Ma c'è soprattutto un danno di immagine difficilmente calcolabile. Stile Juve. Un concetto che si è consolidato e rafforzato nei decenni, diventando quasi uno stereotipo. Un marchio che fa riferimento all'eleganza, alla compostezza e alla moderazione che la Juventus si è sempre vantata, spesso a ragione, di esibire nel mondo del calcio italiano, dall'inizio del secolo ai giorni nostri. In un colpo solo, quell'immagine con Calciopoli va in pezzi. Oggi, con la nostra storia romantica e autentica, andiamo a raccontare proprio le radici e l'essenza dello stile Juve. Vi sono grato per aver accolto come un onore la mia presidenza, ma spero di non deludervi se vi confesso che non ho alcuna intenzione di considerarla soltanto onorifica. Dobbiamo impegnarci a far bene, ma ricordandoci che una cosa fatta bene può essere sempre fatta meglio. Con queste parole, il 24 luglio 1923, Edoardo Agnelli, figlio del fondatore della Fiat Giovanni, entra nella Juventus. Ha inizio il sodalizio più longevo e solido della storia del calcio italiano, tanto che la Juventus oggi viene di fatto identificata con la famiglia Agnelli, che ne detiene la quota di maggioranza. Eleganza, professionalità e mentalità vincente sono le parole d'ordine della nuova gestione. Con Edoardo arrivano a Torino anche Gianpiero Combi, una delle prime star del calcio italiano, e Jenò Károly, il primo allenatore della storia del calcio italiano, con un contratto record di 2.500 lire come anticipo, una settimana di vacanza pagata e un premio di 10.000 lire in caso di vittoria del campionato. Arriva anche la mezzala sinistra Ferenc Hirzer. Con la nuova presidenza, inoltre, per la prima volta, una società di calcio viene gestita come un'azienda, con manager e dirigenti dall'alto profilo professionale a gestire differenti aspetti della società. Questa struttura moderna porta la Juventus ad essere la squadra più solida e vincente degli anni 30 in Italia, un modello da seguire e da inseguire per le altre società calcistiche. Negli anni 30 iniziano anche gli epici duelli con le milanesi, l'Ambrosiana Inter e il Milan, contribuendo a infiammare le domeniche dei tifosi torinesi. Domenica è sempre domenica, e ognuno appena si risveglierà, felice sarà e spenderà sti quattro soldi de felicità. Il 14 luglio del 1935, mentre torna da Forte dei Marmi sull'idrovolante del padre, Edoardo muore in seguito a un terribile incidente. Il velivolo, mentre sta ammarrando nel porto di Genova, urta un tronco e si ribalta. L'imprenditore muore sul colpo. La Juventus e la famiglia Agnelli rimangono legati, ma per un decennio il filo che le tiene unite si assottiglia. Bisogna aspettare il 1947 perché un altro Agnelli torni alla presidenza del club bianconero. Si tratta di un uomo destinato a scrivere le pagine più belle della Juventus, una figura determinante nella storia recente del nostro paese, la cui immagine sarà per sempre legata a doppio filo ai colori della Juventus. Si tratta, naturalmente, dell'avvocato Gianni Agnelli. Gianni Agnelli. Non è facile condensare in un tempo ridotto l'importanza che una figura come Gianni Agnelli ha avuto per l'Italia dal secondo dopoguerra alla fine degli anni 90. Figura sfaccettata, ricca di sfumature, di valori e di contraddizioni, l'avvocato, nato a Torino nel 1921, è uno dei grandi simboli del capitalismo italiano. Un capitano d'industria a vecchia maniera, questo è Gianni Agnelli. Composto e raffinato, sempre rispettoso e rispettabile anche nelle decisioni più discutibili e controverse. Un personaggio che oggi sembra lontanissimo da certe sbracate manifestazioni di opulenza e di ricchezza. Nell'impossibilità di farne un ritratto completo, risulta certamente affascinante ricostruire la sua figura passando attraverso la lente di una delle sue grandi passioni, la Juventus. Ma io direi che e soprattutto un affetto e una passione che continua, non c'è altro. Io vedo che molta gente compra delle squadre di calcio per farsi conoscere, altri sostengono una squadra di calcio per farsi perdonare qualche cosa. Io mi sono trovato la squadra di calcio e naturalmente ci ero affezionato e mi auguro che lo siano anche le generazioni future. È vero, quella squadra se la ritrova quasi per caso dopo la morte del padre Edoardo. Gianni Agnelli ne assume la presidenza nel 1947 con l'obiettivo di farla tornare grande. I bianconeri non vincono uno scudetto dal 1935, anno della morte di Edoardo Agnelli. Giovanni Agnelli porta il nome del nonno, il fondatore della Fiat, uomo dal carattere forte e determinato che quasi da solo aveva costruito una delle più importanti aziende dell'ancora imberbe capitalismo italiano. Il quasi da solo è legato a un uomo, Riccardo Valletta, unico riferimento di fiducia di nonno Giovanni, un manager concreto e astuto all'ombra del quale il futuro avvocato compie un apprendistato determinante. Proprio grazie a Valletta, Gianni Agnelli diventa un manager realista e lungimirante. Valletta gli ha trasmesso l'importanza dell'immigrazione dal mezzogiorno e della fermezza nel rapporto con i sindacati per la gestione della Fiat. Giovanin Lamiera, come viene simpaticamente chiamato dagli operai dell'azienda torinese, fa suoi questi principi e cerca di estenderli anche al di fuori, cioè nell'altro pezzo della sua vita, la Juve. Le maglie bianconere sono davvero nel destino di Gianni Agnelli, fin dal liceo frequentato, quel Massimo D'Azeglio che aveva dato i natali proprio alla Juventus. E poi le partite, nell'avveniristico stadio di Corso Marsiglia, accanto a papà Edoardo e a mamma Virginia, e gli allenamenti della squadra seguiti a bordo campo, momenti di grande serenità e di grande gioia. I sing. Pretending that you're still around. L'adolescenza e la giovinezza di Gianni Agnelli, però, sono tutt'altro che serene e tranquille. Innanzitutto, i lutti familiari che lo segnano subito nel profondo. Oltre al padre, infatti, Gianni perde anche la madre nel 1945 in un incidente automobilistico. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Gianni Agnelli, dopo aver seguito un corso di istruzione presso la scuola di applicazione di cavalleria a Pinerolo, parte per la guerra arruolato in un reggimento di carristi al fronte russo e poi su quello nordafricano. Rientra in patria nel 1941, in tempo per ottenere la laurea in giurisprudenza nel 1943. E poi inizia l'avventura. Dopo l'8 settembre, tenta di rifugiarsi insieme alla sorella Susanna nella tenuta di famiglia posta nella provincia di Arezzo, scortato da un maresciallo dell'esercito tedesco, cui è stata promessa un'automobile nuova. Durante la trasferta, la vettura condotta dal sottufficiale subisce un grave incidente e il giovane Agnelli, con la gamba destra fratturata, viene ricoverato nel nosocomio del capoluogo toscano, dove il 23 agosto 1944 giungono le truppe alleate. Terminata la lunga degenza, si trasferisce a Roma. Arruolato quale ufficiale di collegamento del Corpo Italiano di Liberazione con le truppe alleate, dà il suo contributo alla lotta partigiana. Appena terminata la Seconda Guerra Mondiale, a 25 anni, Gianni Agnelli diventa presidente della RIV, la società di produzione di cuscinetti a sfere fondata da Roberto Incerti e dal nonno Giovanni nel 1906. Nello stesso anno viene eletto sindaco di Villar Perosa, un paese ubicato poco dopo Pinerolo, lungo la statale del Sestrier. È il paese dove la dinastia Agnelli risiede d'estate e da dove la stessa proviene, ed è proprio Villar Perosa la città che ospita anche il primo stabilimento RIV. Non si tratta di un incarico molto impegnativo e Agnelli lo manterrà per quasi 30 anni. Tra la fine del 1945 e l'inizio del 1946 si trova però soprattutto coinvolto in rappresentanza della famiglia in complesse trattative fra il Comitato di Liberazione Nazionale, le autorità alleate di occupazione e il governo italiano provvisorio per la normalizzazione della conduzione della Fiat. Passato questo periodo turbolento, Gianni Agnelli si ricorda di un vecchio consiglio di suo nonno. Prenditi qualche anno di libertà prima di immergerti nelle preoccupazioni dell'azienda. Gianni segue il consiglio del nonno, si dedica ai viaggi, alle relazioni amorose burrascose, all'esplorazione del jet set internazionale, delegando la gestione della Fiat al Fido Valletta. La Juventus però viene seguita da vicino e in prima persona. Con la presidenza assunta nel 1947, l'avvocato Gianni Agnelli cerca di assicurarsi giocatori in grado di fronteggiare lo strapotere dell'altra squadra di Torino, i Granata di Valentino Mazzola. Di acquisti ne arriveranno molti, tutti ottimi giocatori o grandi campioni. Uno in particolare, però, si rivelerà ben più di un semplice bomber. Diventerà un pezzo di storia juventina, intrecciando la sua vicenda personale a quella di Gianni Agnelli. Il suo nome è Giampiero Boniperti. Giampiero Boniperti. La sua storia qui, tra poco. Si chiamava Spartaco e nella quinta B giocava a centrattacco tutti i giovedì. Coi capelli a spazzola, la maglia verde e blu e i calzettoni arrotolati giù. Correva come un matto e saltellava come un gatto e tutti gli gridavano così. Oh oh oh oh, che centrattacco, oh oh oh oh, tu sei il cerbiatto. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati stiamo raccontando uno dei tanti volti di Gianni Agnelli, l'avvocato, uno dei personaggi più influenti della storia italiana dal secondo dopoguerra ad oggi, il suo lato juventino. Agnelli arriva alla presidenza del club bianconero nel 1947, un decennio dopo la scomparsa del padre Edoardo, il primo della dinastia Agnelli ad assumere il controllo della Juventus. Gianni Agnelli vuole rilanciare la sua squadra, che non vince uno scudetto dal 1935 e che vive all'ombra del grande Torino. Per farlo acquista un numero ingente di giocatori. L'acquisto più importante però non arriva da altri team blasonati, ma direttamente dai campetti della provincia di Torino. Il suo nome è Giampiero Boniperti. Giampiero Boniperti nasce a Barengo il 4 luglio del 1928. La famiglia Boniperti è una famiglia contadina, una delle tante, delle campagne tra Novara e Torino. Sin da piccoli Giampiero e i due fratelli aiutano il padre Agapito nelle faccende della fattoria. Agapito, suggestionato dall'idea di ordine del regime di Mussolini, diventa anche il podestà di Barengo. Intanto la vera passione di Giampiero è il calcio. A 8 anni Giampiero, che tutti chiamano Piero, va in collegio ad Arona dai padri rosminiani. Qui lui e il fratello Gino giocano a pallone insieme. Giampiero Boniperti, in un'intervista alla stampa anni dopo, ricorderà: il fenomeno di casa era Gino, mio fratello, solo che fumava come un turco. Sarebbe diventato un fuoriclasse. Ha fatto il radiologo. Giampiero, invece, fuoriclasse dimostra di esserlo già in tenera età. A 11 anni e con 4 gol in un solo primo tempo, porta la squadra degli interni del Collegio De Filippi di Arona alla prima sospirata vittoria contro gli esterni. Tale è l'entusiasmo degli istitutori e dei compagni che irrompono in campo per festeggiarlo, che lui scappa, a suo modo, aggiudicandosi già un primato, quello di un trionfatore che fugge. Rassicurato, torna a destreggiarsi anche nel secondo tempo, fino al conclusivo 8-0. E tanto cade in estasi il vicerettore Don Paolo Granzini, che consegnandogli la medaglia per il miglior giocatore, l'accompagna con poche profetiche parole: tu sarai un campione. Dalla sua bocca non è uscito quello che ho letto oggi sui giornali. Sparano sulla sua vita, sul suo modo di pensare. Ma poi lui vince il più grande. Quando i fratelli Boniperti tornano a casa a liberazione avvenuta, trovano il padre Agapito impensierito come era giusto per la piega che stavano prendendo le cose. Il Barengo ha una squadra di calcio e Agapito prega i due figli di riconquistargli il favore della gente prodigandosi da par loro dietro alla palla. Giampiero sceglie il posto di centravanti, Gino quello di ala destra, così da poter parlare con le ragazze e combinare qualcosa di serio per la sera. Giampiero si impegna al massimo e passa il resto del tempo dietro alle starne in collina e ai beccaccini in risaia. È di struttura normotipica, molto vicina alla brevilinea, che è l'ideale per il calcio. Scatta con prontezza e colpisce benissimo a volo con i due piedi. Giampiero Boniperti, dopo poco tempo, dal Barengo passa al Momo, altra squadra provinciale dei dintorni di Novara. Ma l'eco delle sue prodezze giunge fino alla società del massimo campionato. Siamo nell'immediato dopoguerra e il calcio tenta di rimettersi in piedi concentrandosi su acquisti a buon mercato. È così che vari osservatori iniziano a frequentare il campo del Momo. Lo stesso Boniperti ricorda le offerte ricevute. Ho avuto tante offerte, Inter, Milan, Roma, il grande Torino. Era stato Valentino Mazzola a fare il mio nome a Ferruccio Novo. Il presidente mi ricevette nel suo ufficio. Commendatore, gli dissi, sono della Juve, non posso. Così nel 1947 arrivano gli osservatori della vecchia signora. Gianni Agnelli in persona ha dato mandato di portare a Torino quel giovanotto dal fisico possente. Ha rinunciato all'acquisto del grande Alfredo Di Stefano, ma vuole Giampiero Boniperti perché sente che può essere una pedina determinante per tornare sul tetto d'Italia. La trattativa è rapida, ma Boniperti avanza ad Agnelli delle richieste piuttosto singolari. Io avevo firmato il cartellino per il Momo, ma sentimentalmente il mio cuore era per la squadra del mio paese, il Barengo, e desideravo che nel passaggio alla Juventus anche quella società avesse qualche guadagno. Andò a finire così. Prezzo di acquisto 60.000 lire, 30.000 furono per il Momo e 30 per il Barengo, in scarpe, maglie e reti di cui avevano bisogno. Io mi accontentai dell'onore. 60.000 lire, equamente divise tra le due società che l'hanno fatto crescere. Ma non è tutto. Boniperti, nel suo primo incontro con l'avvocato, un incontro diventato leggenda, si accorda circa i premi partita e i bonus. Oggi queste clausole sono a dir poco onerose e sono i punti cardine attorno ai quali ruota l'oscuro lavoro di quei personaggi ambigui che si muovono intorno ai calciatori e che rispondono al nome di procuratori, figure all'epoca impensabili. I premi partita di Giampiero Boniperti hanno un sapore completamente diverso. Una mucca ogni rete segnata. Questo l'accordo tra Boniperti e Agnelli. Il giocatore potrà recarsi, dopo le partite, in una delle numerose tenute degli Agnelli nei dintorni di Torino e scegliere personalmente una mucca da donare al padre e da sistemare nella sua tenuta. In due anni, Agapito si rifà completamente la stalla. Il fattore degli Agnelli, invece, avrà modo di lamentarsi. Giampiero Boniperti ha l'occhio lungo ed esperto e non sceglie le mucche a caso. Le sceglie gravide. Come minimo due al prezzo di un gol. Quindi Gianni Agnelli inizia la sua avventura come presidente e mette uno sconosciuto 19enne come Giampiero Boniperti al centro del suo attacco, cambiandogli la vita. L'attaccante, dal canto suo, prende progressivamente in mano la squadra dell'avvocato e la fa grande. Gianni Brera, non certo l'ultimo arrivato, scrive della Juventus nata in quel 1947 in questo modo. Non ricordo una Juventus più bella. La allenava un ex pizzardone di Cardiff a nome Carver. La dirigeva in difesa Carletto Parola e truccava il catenaccio chiamando Mari a tenergli il centravanti. Mucinelli arretrava a fare l'interno e Martino si metteva in linea con l'altro mediano, a nome Piccinini. In attacco un'ala di rifinitura, Prest, un interno centravanti di mitica potenza acrobatica, John Hansen, e poi Gian Pierin Boniperti, che duettava con Mucinelli e Martino assai più che con Hansen, del quale era geloso. Me ne accorsi più tardi e capii che Giampier era prima donna, come tutti i campioni di questa terra. Con Valentino Mazzola era comunque Boniperti il miglior prodotto del nostro calcio dopo anni di attesa e di rimpianto. Primo allenamento, stagione 1947-1948. Sotto gli occhi di Gianni Agnelli, il giovane Boniperti si allena con il resto della squadra. Si disputa una partitella. Giampiero prende palla e punta Parola, difensore e capitano di quella Juventus, pilastro anche della nazionale. Serie di finte, tunnel e gol. Un errore imperdonabile. Parola aspetta che Boniperti prenda palla un'altra volta. Poi va dritto sull'uomo e gli tira una gran botta sulla caviglia. Ehi, Burba! Credevi di stare in campo a raccogliere margherite? Sei uomo o no? E allora, coraggio! Impara a stare al mondo, gli dice rialzandolo dopo una stretta di mano. L'avvocato a bordo campo annuisce compiaciuto. Quella stagione la Juventus arriva seconda in campionato. Vince il grande Torino di Valentino Mazzola, ma Boniperti si aggiudica la classifica marcatori. L'attaccante bianconero ricorda così i rivali del grande Toro. Sì, Mazzola veramente era l'anima. Era l'anima di un complesso grande, grandissimi giocatori, dal portiere all'ala sinistra, e potenti, di classe, temperamento. Quella del 1948-49 è ancora una stagione completamente ad appannaggio del Grande Toro, impegnato anche sul fronte europeo. Il 4 maggio del 1949, però, un'incredibile tragedia pone fine alla leggenda del Toro. Un crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire. Il cielo si sfaldava in nebbia e la nebbia cancellava Superga. Dice il capellano della Basilica, ho sentito un rombo paurosamente vicino, poi un colpo, un terremoto, poi silenzio e una voce di fuori, è caduto un apparecchio. Questo è il terrapieno che sorregge il tempio. Già monco dell'ala sinistra, l'aereo diroccò 13 metri di parapetto. Coda e timone si staccarono sulle soglie della porta che la fusoliera aveva sfondato. In un locale attiguo furono trovati due dell'equipaggio. Questa la breccia che aprì il motore centrale, finito accanto ai piloti. Sparsi dappertutto i rottami, mentre i passeggeri che erano nella carlinga vennero compressi in 2 metri quadrati. Ironicamente illese le ruote. Resti del giornale di bordo privo degli ultimi fogli. Gli appunti di Casa Albore, la fotografia del campo di Lisbona. La squadra granata e una parte della nazionale italiana si dissolve in questo modo straziante. La Juventus di Boniperti è destinata a prenderne il testimone sin dalla stagione successiva, dando inizio a uno straordinario ciclo vincente. Tra poco, a destini incrociati. Destini incrociati. Gianni Agnelli, l'avvocato. Giampiero Boniperti, attaccante della Juventus, soprannominato dai suoi avversari Marisa per i suoi boccoli biondi. Insieme, nel 1947, fanno grande la Juventus. Dal 1949, la squadra bianconera inizia a dominare il campionato italiano. Mentre Boniperti segna gol a Grappoli e Parola fa una rovesciata che diventa immortale sulle bustine delle figurine Panini, Gianni Agnelli si gode gli ultimi anni fuori dalle stanze dei bottoni della Fiat. La Juventus per lui è uno straordinario, divertente e serissimo passatempo. Non era un lavoro, era un passatempo che mi divertiva moltissimo. Mi divertiva talmente tanto che mi era stato chiesto di lasciarla se volevo occuparmi seriamente degli affari. È il 1952. Gianni Agnelli, durante l'estate, ha un terribile incidente. Mentre si muove in auto da Monte Carlo a Torino, perde il controllo della sua auto e si schianta. Viene estratto dalle lamiere, ricoverato e ricostruito. Poco tempo dopo diventa vicepresidente della Fiat. Lascia la presidenza della Juventus al fratello minore, il dottor Umberto, il più giovane presidente della storia del calcio, 22 anni. Gianni Agnelli rimane però sempre vicino alla squadra e a quello che in breve diventerà il suo capitano, Giampiero Boniperti, che lo ricorda così. È un uomo straordinario, intelligenza superiore, persona simpaticissima, intenditore di calcio, capiva tutto. 444 partite in bianconero, arricchite con 178 gol, 5 scudetti e 2 Coppe Italia. In nazionale diventa insostituibile, ma il periodo non è dei più felici. Segna, lotta, gioca bene, ma non vince nulla. Diventa però famoso e amato in tutto il mondo. Celebre una sua doppietta in una partita Inghilterra, resto d'Europa. Con questo bilancio, nel 1961, Giampiero Boniperti chiude con il calcio a soli 33 anni. Chiude così, improvvisamente, dopo una partita farsa, 9-1 a una selezione giovanile dell'Inter mandata in campo per protesta. Boniperti consegna maglia e scarpini al magazziniere, la stagione è finita, la sua carriera anche. Non mi piacciono, dichiarerà, le pantomime tra vecchie glorie. Poco tempo dopo, però, l'avvocato lo vorrà dirigente bianconero, presidente. Tra i due si riforma un sodalizio che si rivelerà ancora più vincente del precedente. Do you? Dopo un decennio trascorso nei quadri dirigenziali, Boniperti, il 13 luglio 1971, assume la presidenza della Juventus e la squadra, dopo anni non troppo brillanti, torna a volare. Sotto la sua regia, infatti, la squadra bianconera tiranneggia l'Italia, l'Europa e il mondo. Arrivano scudetti e soprattutto quelle coppe europee che in casa Juventus avevano sempre fatto soffrire. Il rapporto con l'avvocato si fa ancora più solido. Un'altra leggenda che li vede protagonisti si fa strada. Ogni mattina, ore 6, l'avvocato chiama a casa Boniperti. Vuole avere aggiornamenti e dare consigli al presidente della squadra di famiglia. Senta, ma di calcio ci capisce più lei o Boniperti? Senta, lui ha giocato e per capire bene il calcio, il parere di quelli che hanno giocato, e capisco che certamente vale di più di quelli che non hanno giocato. Quindi senza dubbio lui. Il palmarès di Giampiero Boniperti si completa dietro la scrivania. Sotto la sua presidenza arrivano campioni come Bettega, Tardelli, Paolo Rossi, Boniek, Bredi, Gentile, Causio e soprattutto Michel Platini. Sulla panchina il grande Giovanni Trapattoni. La Juve macina scudetti uno dopo l'altro e arriva fino al tetto d'Europa nella drammatica notte dell'Eisel e del mondo nel 1986. L'avvocato è sempre lì, in tribuna, a tifare con le sue strane abitudini, come quella di abbandonare la partita quasi sempre dopo la fine del primo tempo, pronto, perché no, a rimproverare qualche leggerezza al suo vecchio amico Boniperti. Siamo ai campionati del mondo di 6 anni fa in Argentina. Io ricordo, telefono a Boniperti, gli dico: Boniperti, mi hanno segnalato un giovane che ha delle doti eccezionali, ti prego di farlo guardare. Boniperti dice: avvocato, lei ce n'ha sempre una nuova. Si chiama Maradona. Ho detto: questo nome che sembra una bestemmia, non mi stia a scocciare. Dico: Boniperti, guarda che deve essere qualcuno. Risposta di Boniperti: se fosse qualcuno lo saprei. Nel 1994 Boniperti lascia la squadra. Ha scelto la carriera politica, verrà eletto europarlamentare. La verità è che il mondo del calcio, in cui emergono le milanesi e i nuovi ricchi a suon di miliardi, non lo rispecchia più. In quell'anno la squadra bianconera ingaggia la cosiddetta triade: Bettega, Giraudo e soprattutto Luciano Moggi. Agnelli non lo ama. Vede in lui qualcosa di losco. Lo definisce lo stalliere del re che deve conoscere tutti i ladri di cavalli. I bianconeri tornano a dominare in Italia, ma lo stile Juve, progressivamente, si dissolve. Nel 2003 l'avvocato muore. La camera ardente di Gianni Agnelli viene allestita nella Pinacoteca del Lingotto e il funerale trasmesso in diretta su Rai 1. Il Duomo di Torino dà l'ultimo saluto a uno dei suoi cittadini più importanti. Enorme la folla che segue il feretro. La moglie, con una lettera aperta al direttore del quotidiano La Stampa, ringrazierà poi tutte le più importanti figure nazionali e internazionali, ma anche tutti i cittadini presenti a recare un ultimo saluto a suo marito. Tra questi, in prima fila, Giampiero Boniperti, da poco eletto dai tifosi in un sondaggio Juventino del secolo. 3 anni dopo, la Juve, lontano dallo sguardo rassicurante dell'avvocato, sprofonda nel disonore dello scandalo Calciopoli e la triade viene spazzata via dalle infamanti accuse delle indagini federali. I bianconeri provano a rialzarsi, ma i tempi delle vacche gravide, come premio partita, sembrano sempre più lontani. Notti di ansia, atti di dolore, la gente che prega perché nasca una stella. Lo sanno anche i cani disperati della strada, lo sai anche tu, dovunque tu viva, dovunque tu vada. Lo leggi e lo scrivi su tutti i muri. Tempi duri. La stampa non ha gusto e continua a parlare di una generazione obbligata a sperare. E intanto bambini e soldati senza lavoro stanno già ripartendo per la caccia al tesoro. Non ti giocheresti un soldo, eppure lo giuri. Tempi duri. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini Incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.